benvenuti a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. Siete sintonizzati sugli 87.9 Radio Onda Rossa, inizia Tracce di Cinema, giovedì 9 febbraio, sono le 15.01, Fede. Esatto. Siamo stati puntualissimi. Ho fatto le corse. Faccio tutto, sto spostando tutto, sto mettendo tutto in ordine. Brava, brava. Come al mio solito. Allora, mentre tu sistemi tutto, dici anche qualcosa sull'appuntamento di oggi. Ah, beh, sì, oggi un film che potrebbe sembrare un filmetto. I critici non amano tanto questo regista, che considerano abbastanza superficiale, mentre invece, secondo me, è un regista molto bravo, perché oltre che un bravo tecnico è anche una persona dotata di una cultura immensa. Infatti lui ha una biografia che i cui interessi sono stati caratterizzati non solo dal cinema ma anche dalla musica, dalla musica classica, dall'opera, dal teatro, e infatti tutto questo poi si rivede nel suo cinema, che è molto teatrale, molto scenografico. Parliamo di l'australiano Baz Luhrmann, che ha portato al cinema l'ultima trasposizione cinematografica della più grande storia d'amore di tutti i tempi, che è quella di Romeo e Giulietta. E è stato il decimo adattamento cinematografico, questo, ce ne sono stati molti altri bellissimi, quello di Zeffirelli, insomma tantissimi. Adesso risale già a più di 20 anni fa, era il 96. Sì, era il 96. Ha ricevuto tantissime candidature ai premi importanti, due per il premio Oscar, tra cui una la migliore scenografia, e ha una colonna sonora degna di nota, nel senso che a noi è piaciuta proprio perché ha in sé tantissimi brani pop degli anni 90, tra cui due brani bellissimi dei Radiohead, di cui uno è stato proprio scritto per il film, ed è stata messa insieme da tre compositori molto interessanti, di cui magari parleremo magari dopo se c'è tempo: Neil Hooper, Craig Armstrong e Mario Stefanis, che hanno messo insieme i brani, le chicche pop, ma hanno anche scritto alcune delle partiture più... No, stavo pensando a Craig Armstrong, sì, che credo che il brano della colonna sonora del film sia nella forma completa più di 10 minuti, vero? Io l'ho trovato così online. Penso di sì. Comunque, quindi... lui ha curato gli arrangiamenti, okay, di varie pezzi della colonna sonora. E insomma, sono tre bravi compositori, hanno lavorato molto. Craig Armstrong mi sembra che abbia fatto anche altri due film di questo regista, Il Grande Gatsby e Moulin Rouge, credo. Okay. Anche. Beh, comunque, insomma, iniziamo così. Iniziamo così, anche se la scaletta... Con la 3, la numero 3, cioè i Battle Surfers. Sì. Eccoli qui. Peace? I hate the word. As I hate hell, all Montague. I had a dream last night, 'cause it looked just like a dream. I had a dream last night, but it looked unlike a dream. Mercy, mercy, I made a call. Make me a suit so I can get it off. Heaven help me, my head's spinning round. Stop this airplane, 'cause I got to get down. I had a dream last night, and it fit me like a John Wayne and Betty Davis. E questi sono i Butthole Surfers. Eh sì, spendiamo una parola su questo gruppo straordinario degli anni Ottanta, americani, hanno fatto parte della scena underground americana. È una band che si è formata a San Antonio a opera degli allora laureandi in economia, disciplina questa poco, che poco si confaceva al loro stile di vita fatto di alcol, droghe e atti osceni. Gibby Haynes, voce e chitarra, e sassofono, Paul Leary, chitarra, e poi Paul Coffey che si è aggiunto dopo. Poi si sono avvicendati vari personaggi, Paul Coffey con lo pseudonimo di King Coffey. E la scelta del loro nome fu dovuta a un aneddoto abbastanza famoso, cioè quando Haynes e Leary, l'allora batterista Scott Stevens, iniziarono a suonare, il gruppo si chiamava Dick Clark Five, ma destino volle che durante uno dei loro primi concerti il presentatore, anziché col loro nome, li annunciasse con il nome del primo brano segnato sulla loro demo tape, il brano che poi finirà sul loro album di esordio. Si chiama appunto Butthole Surfer, in italiano surfista del buco del culo. Surfisti. Surfisti del buco del culo. E questo è stato l'esordio, che avvenne con un EP omonimo, conosciuto anche con il titolo di Brown Reason to Live, pubblicato nell'83 da un'etichetta indipendente americana famosissima, l'Alternative Tentacles, te la ricordi? Sì. Sotto segnalazione di Yellow Biafra, storico leader dei The Kennedy, insomma, erano molto amati nell'ambiente. La filosofia dei Butthole Surfers può essere sintetizzata in alcuni estratti dal testo The Shah Sleeps in Lee Harvey's Graves. Ve li cito. There's a time to shit and a time for God. There's a time for drugs and a time to be sane. There's a time to live and a time to die. There's a time to fuck and a time to crave. Che fuck, vabbè, lo sanno tutti, crave lo traduco perché magari non se uno può, gli può sfuggire, per desiderare. Ok. E poi insomma hanno avuto una carriera di tutto rispetto. Dopo la Tentacles Records sono passati alla Touch and Go, però insomma poi hanno un po' perso la loro originalità demenziale e così marcia, ecco. E sono passati poi a etichette musicali più importanti. Un disco che ha segnato la fine insomma della loro follia è questo disco che si intitola Hairway to Steven, che prendeva di mira l'immortale canzone dei Led Zeppelin, Stairway to Heaven, e che aveva questa particolarità, cioè nel retro della copertina le canzoni non avevano un titolo ma un disegno. Per esempio, non so, la traccia 4 e 5 erano rappresentate da una sigaretta e una siringa, oppure la traccia 1 è rappresentata da un uomo e una donna nudi che defecano e urinano mentre giocano a baseball. E questo insomma, da questo disco in poi si avvertono proprio i sintomi iniziali della perdita riguardo la loro folle creatività, e diventano più professionali, arrangiamenti acustici più chic. Poi appunto firmano poi per case discografiche importanti, la Capitol eccetera eccetera, però diciamo che lungo tutti gli anni 90 e gli anni 80 i Butthole Surfers hanno sotterraneamente gettato le basi per molta della musica indipendente americana a venire, incidendo anche per label appunto storiche che abbiamo citato. La lezione dei Butthole Surfers è stata quella di dimostrare che la merda può diventare musica, e questo è un estratto dalla bellissima biografia che ho trovato su il sito di Onda Rock di Salvatore Setola, che se magari fosse all'ascolto, se ci telefona, perché io lo vorrei invitare, lo vorrei conoscere, perché veramente sei un grande, Salvatore. Well, you may not see me when you come by. I could be sharing someone else's pillow. And my love for you is better than diamonds. To you, everything I bestow. And tomorrow I'll be dancing on my own. And I'll need a kiss on my head that's aching. And I'll be a hungry dog without a bone, hoping my place with you's not taken. Kiss me and tell me it's not broken. Kiss me and kiss me till I'm dead. See, I give you the stars from the blue evening sky, and a crown of jewels for your. guesses you're the angel's child. Oh, hope that this love's not boiled. Kiss me and tell me it's not broken. Kiss me and kiss me till I'm dead. See, I give you the stars from the bruised evening sky and the crown of jewels for your. Mandy con To You I Bestow. Sì, Mandy è un artista irlandese che ha iniziato a suonare per le strade di Dublino, poi è stato notato da qualcuno e come succede nei sogni ha firmato con una grande etichetta musicale che era la Epic Records e questo era il suo singolo di debutto che ha avuto prima che venisse pubblicato venne concesso in licenza per essere incluso nella colonna sonora di questo film e poi la Epic lo ha licenziato perché insomma non andava d'accordo con quello con le regole di questa etichetta così mainstream e lui con i soldi delle royalties che era riuscito a guadagnare da questa grazie a questo pezzo ha creato una sua etichetta musicale e poi insomma ha continuato la sua carriera, ha avuto molto successo in Irlanda ma insomma anche conosciuto anche fuori. Invece per quanto riguarda questo film qualcosa sul cast, venne scelto DiCaprio subito senza proprio ombra di dubbio dal regista e invece ci fu un grosso problema nella scelta della protagonista femminile di Giulietta. La prima scelta fu quella della star di Leon, Natalie Portman, che fu scritturata per la parte, però dopo aver provato alcune scene i produttori cominciarono a ritenere che fosse troppo giovane per il ruolo, anche perché nelle sequenze d'amore con DiCaprio sembrava quasi che lui la stesse molestando e quindi si sono avvicendate varie attrici finché è stata ingaggiata Claire Danes, che viene poi doppiata dalla stessa Portman e che DiCaprio ha voluto fortemente perché ha così dichiarato che era l'unica attrice che lo guardava e riusciva a guardarlo dritto negli occhi. One Inch Punch con Pretty Piece of Flesh, un rock elettronico molto anni 90. Sì, sì, mi piacciono un sacco. Hanno pubblicato solo un disco loro, Tao of the One Inch Punch, nel 1996, e Justin Warfield, che è, diciamo, il frontman di questa, di questo gruppo, ha collaborato però più volte come vocalist con i Placebo e anche con i Chemical Brothers. Invece di questo film, che è una trasposizione in chiave moderna della tragedia di Romeo e Giulietta di William Shakespeare, il titolo, tra l'altro, il titolo originale è William Shakespeare's Romeo Plus Juliet. Sì, sì, sì. E le vicende proprio ricalcano quelli della celebre tragedia, ma vengono ambientate in epoca moderna. Per esempio, Verona diventa Verona Beach, perché insomma Los Angeles c'è esiste realmente un luogo chiamato invece Venice Beach, quindi lui fa questo giochetto. Le famiglie dei rivali dei Montecchi e dei Capuleti sono rappresentate come dei ricchi e potenti industriali. Altre modernizzazioni sono l'inseguimento di Tebaldo da parte di Romeo, che invece di avvenire a piedi avviene in macchina, e si concluderà con il tamponamento delle due auto e l'uccisione di Tebaldo da parte di Romeo con la pistola del suo rivale. E poi la regina Mab, che viene descritta da Mercuzio nel suo discorso, nell'originale è una regina delicata e metaforica, mentre invece nel film è una droga, un'ecstasy, è una pasticca che Romeo assume prima di andare alla famosa festa dei Capuleti, in cui poi si incontra la sua Giulietta. Tutta colpa delle droghe. Sì. To be someone else, so I'll explode, floating upon the surface for the birds, the birds, the birds. Come on and break the door down. E siamo arrivati al piatto forte di questa colonna sonora, il piatto dei Radiohead, perché sono presenti con due tracce, giusto? Sì. Questa era Talk Show Host, tratto dal singolo Treat Spirit, canzone avvolta nel mistero, perché Thom Yorke non ha mai voluto svelare il significato di questo brano, che è considerato, faceva parte del lato B di questo singolo, ed è stato considerato uno dei più bei B-side della storia dei singoli musicali prodotti nella storia della musica. Per quanto riguarda il singolo in sé, Thom Yorke ha detto che è stato ispirato dal libro La via della fame dello scrittore nigeriano Ben Okri, e questo brano, che loro suonano moltissimo dal vivo e che amano tantissimo, non è mai stato poi inciso all'interno di nessun album, però è stato così dato per arricchire questa bellissima colonna sonora. Allora, questo brano ci porta all'ospite di questa settimana, lo ritroviamo, era già stato con noi Sergio Sozzo, ben ritrovato Sergio. Ciao, buon pomeriggio, ciao, grazie ancora una volta di avermi in questo spazio a cui sono affezionato, quindi grazie, sono contento. Allora, di questo film, tra l'altro ne stavo parlando con Fabio Ferzetti e lui mi diceva che aveva amato di questo regista il film d'esordio, Ballroom, che io invece ho perso e che lui considera uno di quegli esordi misconosciuti che invece sono veramente belli, e quindi un po' mi ha lasciato con la curiosità. Sì, no, ma allora Ballroom è... Allora, io, come dire, parto da una passione nei confronti di Lurman, quasi da fanboy, direbbe, ai giorni nostri, quindi è un autore che amo moltissimo, e che ovviamente, immagino l'abbiate già detto nel corso di questa puntata, ovviamente le 14 nomination alla Land in qualche modo ritirano in ballo fondamentalmente, no? Per questa idea di cinema sempre sospeso tra musical e nostalgia fondamentalmente. Ballroom è interessante come punto di partenza, poi c'è chi parla proprio di una trilogia, no? Con Ballroom, Moulin Rouge e Romeo e più Giulietta, perché poi ovviamente dopo Lurman andrà a discostarsi con film forse stati più tra virgolette estremo che Australia, no? E poi sì. Il grande Gatsby, che insomma è un po' più un ritorno a un Lurman più certificato, diciamo. Però però Ballroom è molto interessante, anche perché è un progetto a cui Lurman credeva tantissimo, aveva già portato a teatro con gli amici, insomma è una cosa tra l'altro viene un po' prima che si iniziasse a ragionare proprio di cinema MTV, diciamo, fondamentalmente. Sì. un po' agli albori di tutto poi quel discorso. Tra l'altro la volta precedente che ci siamo sentiti in questo spazio parlavamo di Trainspotting, quindi poi di tutto sì. quel discorso che poi anche Danny Boyle e altri autori porteranno avanti, che è quello di recuperare le suggestioni appunto del videoclip, della TV, dello zapping, diciamo, all'interno del suo cinema. Forse in qualche modo lo intuiva, però mi sembra che Lurman sia anche molto di più di questo, cioè di un ragionamento sulla forma musicale, sul coreografico. Mi sembra che nelle sue immagini si aggiri anche molto altro, davvero un'intuizione sui tempi che stiamo vivendo adesso. Mi sembra che fosse già Netflix prima di Netflix, insomma, per capirci, cioè l'idea di flusso, l'idea di poter perdersi nell'immagine come se fossimo in un binge watching, un'idea quasi di streaming, no? Sì, e non sì. a caso poi lui ci dirà per fare questa serie Netflix che è The Get Down, dove giustamente e coerentemente lui parla dell'origine della cultura del campionamento lui che di fatto è un campionatore di cinema, ecco. Sì, no, l'idea del ragionamento di Ferzetti era proprio rispetto a Ballroom, dice è uno di quei film che già contiene tutto, l'idea di un l'estetica, ma anche la concezione del cinema di un autore che è già completo, un film che è già completo di per sé rispetto a poi la alla filmografia successiva. Senti, di questo Romeo più Giulietta che dici? Guarda, anche lì c'è stato un po', abbiamo vissuto un po' questo periodo di rifacimenti shakespeariani in ogni salsa, sì, no? È vero. Cioè veramente c'era veramente la fantascienza shakespeariana, la guerra shakespeariana, improvvisamente era qualunque cosa era mi ricordo per esempio l'Hamlet 2000 di Almereida, che forse è quello che più si può avvicinare all'operazione di Luhrmann, con Tanok che recita famoso monologo essere o non essere mentre in un blockbuster tra le VHS, no? Se fai i corridoi. È interessante perché insomma Romeo più Giulietta, cioè come dire, Luhrmann fa i conti proprio con tra tutti i testi mitologici di Shakespeare, quello più iconico, no? Quello più anche più saccheggiato, volendo. Non erano passati troppi anni per dire da China Girl di Ebo Ferrara, no? Quando è uscito con Romeo più Giulietta. Insomma, c'era, tra l'altro da lì in poi ne abbiamo continuato a vedere tantissimi, Romeo Zombie, ne abbiamo visti, continuato a vedere adattamenti. Però ecco, lì in Luhrmann c'è questa, sempre questa idea di festa in costume, appunto, c'è sempre questo tentativo di ragionare per attimi, no? Quello che lui coglie, secondo me, di Shakespeare, Romeo più Giulietta, è questa attenzione alle assonanze, ai versi, è come se le immagini stesse fossero anche loro concatenate, è come se lui ragionasse sempre appunto proprio per attimi, per versi, e il bello è che sono sempre dei film incastrati in qualche modo, per questo ovviamente la celebre immagine dell'acquario che poi fece la storia, no? Diventata ancora oggi, la portiamo avanti come un'immagine cult del film, quella in cui i due si escludono per la prima volta di visita da questo vetro. È un po' un cinema che sembra sempre meno gioioso di quello che voglia dare a vedere, per questo tra l'altro Romeo più Giulietta è il testo perfetto per fare questo, no? Riesce a trasformare una commedia teen poi ovviamente nella tragedia che gli appartiene. E andando avanti, se penso all'ultimo Gatsby, che è un film veramente funereo, un film veramente sull'incastro, no? Sul non riuscire a liberarsi da questa ossessione per la festa continua, per il per questa idea di leggerezza, però finta, fondamentalmente sintetica, no? Infatti poi è un film dove si è continuamente incastrati sempre nello stesso attimo. Trovo straordinario recuperare in Gatsby proprio il DiCaprio di Romeo più Juliet, no? Come a dire, il tempo è passato, ma come se fossimo sempre sospesi in questa immagine, come dire, quasi oltre il dirupo, ecco. Lui mi sembra un cineasta, solitamente appunto viene associato al camp, al pop, a me sembra un cineasta molto più tragico di quello che possa dare a che vedere, e in questo ovviamente Romeo più Juliet è perfetto per svelare questo aspetto, ecco. Senti Sergio, l'elemento musica nella sua filmografia? Appunto, quel punto è interessante, perché insomma non può pensare a Luhrmann senza l'idea musicale, tant'è che quando farà Australia, che è un film precedente diciamo all'invenzione del pop come ambientazione storica, comunque tutto il film si basa su di una canzone popolare che il piccolo bambino che viene colonizzato fondamentalmente da Nicole Kidman associerà poi alla canzone di un musical visto di straforo in cinema, quindi è come se lui proprio non riuscisse a rimanere senza questa idea della cellula musicale da cui partire. Però appunto non si tratta di videoclip, secondo me non si tratta di musica a supporto, quanto proprio di campionamento. Davvero The Get Down è cruciale in questo, quindi utilizzare magari singoli elementi, magari mi interessava quello che stavi dicendo prima, per esempio sulle B-side, come se fossero tutte versioni alternative fondamentalmente, no? Nel suo cinema, fossero tutti quasi dei bootleg, perché lui ricrea, tante di, insomma, Romeo più Juliet, tanta della musica di Romeo più Juliet poi è rimasta legata a quelle immagini, no? Anche quella che non era stata come dire, veicolata apposta, che uscirono i videoclip eccetera eccetera, però è in grado quasi di reinventare le musiche che usa, e Moulin Rouge fa questo ovviamente in maniera smaccata, sì, con l'idea proprio poi del burlesque, di questi cambi di epoca, no? Delle musiche provenienti da epoche tra virgolette sbagliate. Sì, sì. Senti, quella è una colonna sonora pazzesca, sì, Nirvana, Elton John, YouTube. Senti Sergio, in chiusura, hai dei suggerimenti per film le cui colonne sonore sono davvero notevoli per noi? Beh, immagino che molti che mi sono in mente l'abbiate già affrontati, ma insomma io ho una grande passione per la colonna sonora di Strade Perdute, Inch per esempio, con Rammstein, Bowie, io segno. È tutto perfetto. Ah, bene, bene. Oppure, guarda, recentemente, allora, qualcosa... vabbè, recentemente ovviamente tutti quanti siamo impazziti per le musiche di Stranger Things di Netflix, però credo, e mi allaccio un attimo agli Oscar, Venturi, credo che il lavoro fatto da Mika Levy per le musiche di Cechi sia una cosa spaziale. Io poi ho insomma, a me piace molto lei, sono andato a vederla spesso a Roma quando suonava al Circo degli Artisti, però ecco, un orecchio più che altro alle musiche di Mika per Jake. Lei ha già fatto un grande lavoro su quel film con Scarlett Johansson, di cui ora mi sfugge il nome, uscirà Skin nel titolo, okay, dove lei è un alieno, però se noi in Jackie lei fa un lavoro incredibile. Bene, allora ti ringraziamo, prendiamo nota e a presto. Grazie, grazie a voi, buon proseguimento. Ciao, ciao, Sergio. Grazie. Ciao. I Garbage, la traccia è Crush. Sì, bellissima, la mia preferita di questa colonna sonora. Sì, eh? Sì. Vedi. E questo gruppo nasce a Madison, Wisconsin, nel 1994 dalla mente di Butch Vig, famosissimo produttore musicale dei Sonic Youth, Smashing Pumpkins, LA 7, e ha collaborato anche con molti album, tra cui Nevermind the Nirvana e insomma altri. E insieme a lui erano Steve Marker e Duke Erickson, altri produttori, altri menti geniali della musica e della produzione americana. E poi si è aggiunta la bellissima voce di Shirley Manson, che è stata notata durante una, mentre insomma stava facendo un pezzo su MTV, perché faceva parte di, una, di un altro gruppo musicale, e quindi decisero di voler farla entrare nella, nella band. A proposito del nome del gruppo, ci sono due aneddoti che spiegano il perché della scelta. Inizialmente erano soliti usare delle sonorità di musica elettronica, e si dice che per questo motivo un giorno uno degli ospiti nello studio di registrazione chiamò questa musica garbage, cioè spazzatura. E, ma solo più tardi poi fu usato il nome proposto da Vig proprio per il gruppo e per un loro album. Altro aneddoto che si dice abbia dato origine al nome fu il fatto che Butch Vig contribuì nel remix dell'album Fixed degli Nine Inch Nails, che però Trent Reznor lo bollò come garbage, e quindi insomma da qui pare sia nato il nome. Hanno insomma iniziano ad avere grande successo, un discreto successo con alcuni singoli, ma il vero successo arriva nel 1995, li consacra alla, insomma alla, alla fama Stupid Girl, e alla fine di quell'anno lanciano l'album di esordo omonimo che vende oltre 3 milioni di copie. E poi hanno suonato il tema principale della colonna sonora di James Bond, The World Is Not Enough. E poi hanno, durante la loro carriera hanno effettuato 4 tournée, una per ogni album, ed ognuna di queste è durata dai 15 ai 20 mesi, pensa Fede, una cosa, pensa che fatica, una vita in giro. E durante i tour hanno ospitato nei loro spettacoli, che sono stati fatti nei club, negli, dai club agli stadi, artisti come No Doubt, Alanis Morissette, U2, Red Hot Chili Peppers, insomma tantissimi altri, Smashing Pumpkins naturalmente. E l'ultimo album dei Garbage, Bleed Like Me, è uscito nel 2005. Poi la band probabilmente anche stanca di tutta questa insomma lavoro su, sui tour, ha deciso di sciogliersi, e hanno proprio dichiarato: abbiamo necessità di passare più tempo con amici e parenti. Love Fool, amore folle, loro sono i Cardigans. Eh sì, era il 1996 quando usciva questo l'album che conteneva questo pezzo stupendo, First Man on the Moon. Te lo ricordi, Fede? No. Non ti piacciono i Cardigans? Non sei sul cellulare questo? Beh, no, questo brano proprio no. No, come no? No, non mi piace. A me molto, invece, è il mio secondo brano preferito. Di questa colonna sonora, sì, perché il primo è quello dei Garbage. E di questo brano, beh, che insomma, famosissimo, li ha fatti diventare celebri, gli ha fatto vendere miliardi di dischi. Ci sono due videoclip assurdi. Due ne hanno fatti, non uno, due. Uno ve li ricordo, uno per il mercato statunitense, è stato diretto da Geoff Moore e vede i componenti del gruppo come un equipaggio in un sottomarino, mentre nel frattempo si seguono le vicende di un giovane naufrago su un'isola minuscola che invia un messaggio d'amore all'interno di una bottiglia alla sua amata che lo aspetta sulla terraferma. E l'altra, la versione europea, è più inquietante perché viene realizzata da Björn Lindgren e vede la cantante del gruppo Nina Persson spiare degli uomini entrare in un magazzino abbandonato. All'interno gli uomini vengono intrattenuti da alcune anziane prostitute mentre un uomo anziano suona la batteria. La Persson esegue il brano altrove, sdraiata su un divano con l'espressione pensierosa, fino a quando decide di andare nel magazzino ed affrontare direttamente uno degli uomini, evidentemente oggetto del suo desiderio. Insomma, abbastanza così brutti entrambi. Un altro video, perché sono famosi loro per questa cosa dei video un po' sballati, è quello di My Favorite Game del 98, che fu addirittura censurato. Ah. Fatela vedere se sei curioso. La versione originale integrale non si trova. Non si trova. From your sleep, the drying of your tears. Today we escape. We escape. Past and get dressed before your father hears us. Before oh hell breaks loose. A song, a song to keep us warm. There's such a chill, such a chill. Oh, Un doppio omaggio ai Radiohead con tutti e due i brani contenuti in questa colonna sonora. Questa è Exit Music for a Film. Sì, mi sono commossa. Oh, bello, eh? L'hanno scritto apposta per questo film, Radiohead, questo pezzo che accompagna i titoli di coda della nostra pellicola Romeo più Giulietta. Il regista Luhrmann inviò alla band una videocassetta con gli ultimi 20 minuti del film, chiedendo a Tom York di scrivere una canzone appunto per i titoli di coda, e nacque Exit Music for a Film, che apparì che nel 1997 nell'album The Radiohead OK Computer. E il regista disse che secondo lui è una delle tracce composte più belle nella storia del cinema per quanto riguarda l'accompagnamento delle musiche dei titoli di coda. Io sono assolutamente d'accordo, i Radiohead non si discutono mai. Sono le 16, Fede. Siamo in chiusura e ci diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre dalle 15 alle 16. L'indirizzo di posta elettronica è traccedicinema@andarossa.info, in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio andarossa.info, sull'home page ascolta la diretta. Ricordatevi di sostenere questa radio libera e senza padroni, senza padrini politici, dal 1977 attraverso il conto corrente postale 6180401 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Voci 56 00185, o tramite il sito della radio www.ondarossa.info. trovate tutte quante le coordinate per sottoscrivere in via telematica. Fatelo, potete anche venirci a trovare qua negli studi di Onda Rossa, via De Volsci, per prendere anche la nuova scarcialanda che è uscita e che è qua, quindi veniteci a trovare. E ci lasciamo con When Doves Cry. Sì, sì, diciamo... una cover di Prince fatta da chi? Boh. Fede. Vabbè, lasciamo con questo. Fatta da Quindon Tarver, non è molto famoso lui, ha fatto soltanto questa cosa e insomma, però l'ha rifatta bene. Ok. Allora ci lasciamo con questa, dopo di noi Attica Blues. They cry. Oh, they cry.